Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Porte che si chiudono in Europa. La Slovenia dalla mezzanotte ha ripristinato in pieno il regime previsto dalle regole di Schengen alla frontiera con la Croazia, secondo l'accordo sulla chiusura della rotta balcanica raggiunto al vertice tra Unione Europea e Turchia lunedì. La Croazia farà lo stesso, già pronte anche Serbia e Macedonia, che dicono seguiranno l'esempio di Lubiana in un nuovo effetto domino. Il confine macedone greco è di fatto dunque l'unico punto d'ingresso verso l'Unione Europea dalla Turchia. Unico accesso, almeno fino alla prossima settimana, dopo l'accordo di principio con Ankara, spetta al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nei giorni che separano dal prossimo vertice dei leader del 17 marzo definire i dettagli. Oggi ne discutono gli ambasciatori dei 28, domani ci sarà la riunione dei ministri della giustizia e degli interni europei. L'elemento innovativo dell'intesa con Ankara è un sistema di reinsediamento secondo uno scambio di 1-1. Un meccanismo contrario al diritto internazionale, ha detto ieri l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, ma Bruxelles rassicura. L'accordo finale che va a essere trovato va a essere in conformità con il diritto internazionale e con il diritto europeo. L'accordo finale che sarà trovato sarà conforme al diritto internazionale, rassicurato, lo sentite, il portavoce della Commissione Alexander Winterstein. Ma restano le preoccupazioni, Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR. Abbiamo preso una posizione molto forte, molto ferma, di grande preoccupazione, perché innanzitutto vertice che c'è stato non ha portato ancora un accordo, perché questo deve essere definito poi il 17 di marzo. Speriamo che si possa ritornare su alcuni punti che sono non solo contrari, diciamo, al diritto sia europeo stesso, che evidentemente i negoziatori pensano prima o poi di riformare e di cambiare radicalmente, ma sono anche contrari al diritto internazionale. Pensare di riportare con una sorta di mercanteggiamento in Turchia migliaia di richiedenti asilo, centinaia di migliaia di richiedenti asilo, per poi farne arrivare per ogni persona rinviata una persona in Europa, è intanto macchinosissimo, estremamente costoso, con dei costi non solo economici ma anche umani estremamente alti. Ma poi se si va avanti a leggere nella dichiarazione si scopre che in realtà gli impegni rimangono quelli assunti l'anno scorso, cioè di far arrivare in modo legale 20.000 persone. Allora qui crolla un po' tutto questo castello, perché se si vuole veramente disincentivare la partenza di siriani ed afghani, questa non si disincentiva assicurando l'arrivo di 20.000 persone, quando nella regione ce ne solo di siriani ce ne sono 4 milioni. Intesa sulla quale questa mattina c'è stato dibattito alla plenaria del Parlamento europeo, dove ci sono però anche altri temi sul tavolo in discussione. We will be measured by our ability to improve the prospects of our people today and tomorrow. La gestione economica dell'Unione europea richiede responsabilità economica. Chi la governa sarà giudicato sulla base della nostra capacità di migliorare le prospettive di vita dei nostri cittadini, oggi e domani. Ha affermato così il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis davanti alla plenaria, ed è quindi importante continuare a fare pulizia nei bilanci pubblici. In tema di economia, commenti positivi anche dall'Italia: lo stop al dumping sociale all'interno dell'Europa e l'intenzione delle nuove regole presentate dalla Commissione europea sui lavoratori distaccati, per evitare di fatto differenze di trattamento per i lavoratori e una concorrenza sleale tra le imprese nei 28. In sostanza, se un'azienda polacca invierà i suoi dipendenti, ad esempio in Francia, questi dovranno essere remunerati secondo i criteri salariali e sociali francesi. Lavoratori distaccati che nell'Unione oggi sono quasi 2 milioni. E infine il Parlamento europeo, che si è espresso anche sulla proposta che apre le porte ad una quota extra di 35.000 tonnellate di olio d'oliva tunisino senza dazi per l'anno 2016-2017. Molti pareri contrari, ma ci sono delle ragioni per questa apertura, come spiega il presidente della Commissione Ambiente, Giovanni La Via, al microfono di Anna Marino. Le origini sono tutte di politica estera. Nel momento in cui chiediamo agli stati della sponda nord africana che si affacciano sul Mediterraneo di bloccare i flussi degli immigrati, e soprattutto cerchiamo di creare in quelle aree condizioni che frenino i processi migratori, bisogna trovare spazi di mercato per i loro prodotti. E loro che cosa producono? Sicuramente non producono prodotti e componenti complessi industriali e tecnologici, producono prodotti agroalimentari a basso grado di tecnologia, per cui producono olio. Ma di questo torneremo a parlare questa sera, spazio dedicato all'Europa ad effetto notte alle 21. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.